Job 24. Bentrovati a Job 24, ogni giorno a quest'ora le opportunità di lavoro, le notizie, gli spunti per trovare o cambiare occupazione. Oggi ci concentriamo sull'Export Specialist e questo è il nome che la società di internazionalizzazione di piccole e medie imprese Comarc ha scelto per questi professionisti di cui è alla costante ricerca. Comarc è presente in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, ma la ricerca riguarda tutte le regioni d'Italia. Ma chi è l'Export Specialist? Alessia Caracuta, responsabile ricerca e selezione risorse umane di Comarc. È la colonna portante di Comarc. L'Export Specialist è un Temporary Export Manager, una figura quindi che Comarc fornisce in outsourcing a piccole e medie imprese e che supporta quelle piccole realtà che vogliano creare delle reti commerciali in Italia e all'estero e che li supporta quindi con uno sviluppo, con una consulenza che potremmo dire ha un approccio strategico ma uno sviluppo assolutamente operativo, per cui queste piccole realtà avranno direttamente al loro interno una figura che li aiuterà a 360 gradi. Ad oggi le figure sono 40, ma essendo Comarc una realtà in forte espansione abbiamo un potenziale sulle quattro regioni di presenza diretta e quindi comunque stiamo cercando indistintamente, nel senso che nel momento in cui noi troviamo una figura valida è interesse appunto di Comarc inserirla, per cui essendo in forte potenziamento sulle quattro regioni siamo costantemente alla ricerca di persone, di candidati validi. E qual è il candidato ideale? Come competenze chiediamo appunto sì un'esperienza in ufficio commerciale, ufficio vendita estero, obbligatorio tra virgolette l'inglese, preferibile il tedesco, lavorando Comarc molto con la Germania. Le caratteristiche che vanno a completare il profilo sono sicuramente delle doti caratteriali, per cui è estrema grinta, estremo dinamismo, essendo una figura appunto in costante movimento e dovendo gestire contestualmente più realtà aziendali. Perché una persona con questi requisiti dovrebbe pensare a diventare un Export Specialist? Perché è un ruolo assolutamente stimolante e quando io descrivo la posizione durante i miei colloqui una persona su due lo definisce appunto stimolante per il challenge. Comunque è una posizione che costantemente porta la persona a un contatto con realtà diverse, quindi imprenditori differenti, prodotti differenti, per cui sicuramente gestire contestualmente più realtà vuol dire doversi confrontare ogni giorno con se stesso, quindi sia a livello proprio professionale, perché comunque siamo molto attivi con un discorso di formazione costante, quindi sicuramente è un lavoro assolutamente stimolante, impegnativo, con uno stress psicofisico importante, però assolutamente gratificazioni da tutti i punti di vista. C'è spazio per i giovani? Assolutamente sì, nel senso che l'esperienza, il fatto stesso che non abbiamo un target di riferimento per quanto riguarda l'età. Questo è un dato molto importante. Noi abbiamo persone, abbiamo Export Specialist di 30 anni, abbiamo Export Specialist di oltre 40. Questo perché? Perché comunque quello che viene considerato è sicuramente l'esperienza, viene considerato appunto quanto si sia tagliati per il ruolo. Grazie ad Alessia Caracuta, responsabile ricerca e selezione risorse umane di Comarc. Oltre agli Export Specialist, bisogna dirlo, è la ricerca di affiliati network. Chi è interessato può fare riferimento al sito www.comarc.srl.it. E prima di salutarci, spazio al lavoro nel cinema. Che bastardi, mi sono ammazzata lì dentro per 20 anni, quindi mi danno solo 2.000 euro. Non ci sto. Con 20.000 euro potremmo far ammazzare il padrone da un professionista. Io ci sto. Sì, va bene. Questo, intitolato Louise Michel, è uno dei film in programma nella rassegna che parte domani a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Si tratta della quinta edizione del Labru Film Festival. Fino al 5 ottobre si proietteranno film che trattano di lavoro e quest'anno per la prima volta ci saranno spazi dedicati al cinema come mestiere. Trovate tutte le informazioni al sito www.lombardia.cisl.it. Per riascoltare Job 24 invece il sito è www.radio24.it. Per scriverci job24@radio24.it. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani. Un saluto da Roberta Pellegatta. I hold, I hold, I hold.